L'antropando nasce dall'esigenza di un lavoro. Il nome viene da uno storming, abbiamo fatto insieme a alcuni ragazzi che frequentavano il negozio. Alla fine abbiamo deciso per Altroquando. Ci sono diversi riferimenti ad Altroquando. Quello che mi piaceva di più era la citazione di Van Gogh. Dicevano gli orrori di Altroquando. Altroquando era la definizione della Terra vista da un extraterrestre, perché era un altro posto e un altro tempo. Diciamo che il fumetto, anche se fino a un certo periodo dicevamo che era in crisi, era un'isola felice, perché le librerie di Varia non tenevano fumetti tranne Ugo Pratt o qualcosa di Manara. Da un po' di tempo è stato scoperto questo mercato e ora anche a Palermo, in tutte le librerie, c'è un piccolo angolo dedicato ai fumetti. Però trattati sempre in modo come se fossero quasi materiale porno. Prendi il caso di un Pazienza, grande autore, però sempre autore di serie B, cioè un autore che ha sviscerato una generazione, che ti raccontava una generazione col sangue, con lo scherzo, col fumo, ma te la faceva vivere quella cosa. Questi sono i fumetti, cioè quando ti trasmettono sensazioni, passioni, battaglie pure, perché no? Al contrario, in Francia, per esempio, c'è un grande interesse verso il fumetto. A me ha colpito moltissimo qualche anno fa, quando come miglior libro dell'anno ha vinto un fumetto. Era un fumetto di Bilal. Pompeo è un romanzo di Andrea Pazienza, molto duro, e parla molto della sua unione con l'eroina. Un altro molto molto divertente è questo qui, è Ralph Koenig, è un autore tedesco, e racconta molto spesso le storie di una coppia gay, in modo molto ironico, e molto vicino pure alla realtà per certi versi, molto divertente. Un'altra cosa che mi piace sono queste cose qua che stanno uscendo a Palermo. Questo è un autore palermitano, Gozzino. Altro autore palermitano interessante è questo qui, Claudio Stassi. Questo è un volume dedicato al quartiere Brancaccio. Naturalmente parla di mafia, di ricatti, molto bello, molto interessante per le cose come le racconta. Prego. Okay. Io ho fatto l'obiezione di coscienza e sono stato fra i primi in Italia a fare la richiesta di obiezione di coscienza. La mia obiezione di coscienza si basava sul discorso che io sono omosessuale. Una cosa, se io non avessi voluto fare il militare, bastava dichiararlo, considerarsi malato e non fare il militare. Io ho ribaltato le cose. Cioè io, in quanto omosessuale, non faccio il servizio civile, il servizio militare, perché non mi sento rispettato da voi. E quel periodo ero ad Amsterdam. E lì abbiamo pubblicato una delle prime cose in italiano sull'omosessualità, che era il Manifesto per la Rivoluzione Morale. La cosa triste è che a distanza di anni l'Arcigay rilasciava dei patentini di omosessualità per non fare il militare. Veramente una cosa assurda. Cioè persone omosessuali che si dichiaravano malate per non fare, cioè dichiaravano che la propria omosessualità era una malattia, per non fare il servizio militare. E questa è una cosa molto triste. Noi abbiamo ripreso un discorso interrotto qualche anno prima da un gruppo di Milano, ed era quello di mettere su carta un pizzico della nostra passione verso gli orsi. Cosa sono gli orsi? Gli orsi sono gli uomini corpulenti, pelosi, grassi, cioè il contrario dell'estetica dilagante, no? Deve essere fico, palestrato, abbronzato, mentre la cultura degli orsi è: io sono bello così come sono, con la pancia, con i peli, con le rughe, orgoglioso di avere l'età che ho. Cioè, non rimpiangere il discorso della giovinezza, perché da giovani si è più belli. Il bello è dappertutto e soprattutto il bello è dentro di noi.